Garibaldi fu ferito di una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da agosto a dicembre del 1798. Roma contesa, conquistata dal re di Napoli e riconquistata dai francesi. L'esercito di Parigi mette in fuga i re, Carlo Emanuele in Sardegna, Ferdinando a Palermo. Stati Uniti stretta sull'immigrazione, 14 anni per ottenere la cittadinanza. Nasce una nuova corrente artistica, si chiama romanticismo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura torniamo alle vicende italiane, in particolare a quelle che riguardano Roma. Con il Papa ormai fuori dalla città e la proclamazione della Repubblica Romana sotto l'egida francese, l'urbe è stata teatro in questi ultimi mesi del 1798 di una doppia conquista. Sentiamo. Presa, perduta, ripresa. Roma, la città eterna, resta al termine di quest'anno cruciale della sua storia in mano repubblicana, il che, va detto, significa francese. La Repubblica Romana, nata a inizio anno sull'onda dell'invasione transalpina e della successiva abolizione d'autorità del potere temporale del Papa Pio VI, ha vissuto a fine novembre i suoi giorni più difficili. Certo, a febbraio la rivolta popolare repressa dall'esercito francese aveva già messo in evidenza la debolezza del nuovo Stato rivoluzionario, ma l'invasione, il 28 novembre, del territorio della Repubblica Romana da parte dell'esercito napoletano forte di 70.000 uomini al comando del generale austriaco von Mack e dell'appoggio della flotta britannica dell'ammiraglio Nelson ha fatto vivere momenti di terrore ai rivoluzionari romani. Dopo solo sei giorni il sovrano napoletano Ferdinando IV entrava in Roma da conquistatore. Il 14 dicembre tuttavia la controffensiva francese ha messo in rotta l'esercito napoletano. Ancora una volta solo la forza dell'armée ha permesso alla Repubblica di restare tale. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. I francesi non si sono però fermati qua. Il 6 dicembre hanno invaso il Piemonte, costringendo alla fuga in Sardegna il re Savoia, Carlo Emanuele IV, arrivato sull'isola con la scorta proprio della flotta inglese, ed è stata la stessa flotta inglese guidata da Nelson a consentire la ritirata a Ferdinando IV, re delle Due Sicilie, a Palermo dopo che il generale Championnet ha conquistato Napoli. Intanto l'uomo che ha portato l'armata francese in Italia, Napoleone Bonaparte, si trova in Egitto, una spedizione che ha portato alla decimazione della sua flotta e lo ha costretto ad una dura repressione di una rivolta al Cairo. La possibilità concessa a cristiani ed ebrei di vendere vino ha portato all'insurrezione della popolazione musulmana. Dopo la stretta sulla stampa, con l'approvazione del Sedition Act, andiamo all'estero, negli Stati Uniti, che di fatto punisce col carcere le critiche dei giornali al governo, John Adams, presidente americano, ha fatto approvare anche delle leggi molto dure sull'immigrazione. Per ottenere la cittadinanza ci vorranno 14 anni di residenza e nemmeno dopo questi ci sono certezze, perché se il proprio paese d'origine è in guerra con gli Stati Uniti è prevista la confisca dei beni e la deportazione. E ora parliamo di letteratura. It is an ancient mariner, and he stoppeth one of three. By thy long grey beard and glittering eye, now wherefore stopp'st thou me? Quella che state sentendo è The Rime of the Ancient Mariner, uno dei poemi tratti dal volume Ballate Liriche, uscito a Londra in forma anonima, ma sembra che gli autori siano Thomas Coleridge e William Wordsworth. Intanto in Germania si sta raccogliendo un gruppo di intellettuali, tra cui il poeta Novalis, intorno alla rivista Ateneum. Friedrich Schlegel, anima della rivista, ha definito questo nuovo movimento romanticismo. Ed è tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta, e Paolo Piacenza. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.